ballerina va, dolce farfalla che ti muovi in una lune d'oro. Va sulla scena, va, nessuno sa che in te quest'oggi si è fermato il cuore. No ballerina tu, alla ribalta mai le lacrime non puoi mostrare, anche se non c'è più chi t'aspettava un dì ed ora non vuoi più tornare. Forse tu che piange e soffri ancora vorresti andar da lui gridando di dolor, non mi lasciar, ma non si può ballerina, no. La vita vuol così, stasera tu dovrai restare. Va ballerina, va, e sulla scena ancora sorridi a chi non sa. Oh ballerina va, l'amor non può tornare. Va.